ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Si dice spesso che il romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino abbia come argomento la lettura. Effettivamente il libro è dedicato alle avventure di un lettore che, per una serie di incredibili incidenti, non riesce mai a completare la lettura del romanzo che ha iniziato, ma viene fatto rimbalzare da un testo all'altro senza riuscire mai ad andare oltre l'incipit. Una struttura complessa, pertanto, che i ragazzi non sempre apprezzano. Spesso, infatti, i miei allievi accusano l'autore di eccessivo cerebralismo o si lamentano perché, proprio mentre sono stati presi da una vicenda e vorrebbero conoscerne lo sviluppo, la narrazione si interrompe per riprendere poi con un'altra storia. Raramente, però, si parla di un altro argomento che Se una notte d'inverno un viaggiatore tratta, la scrittura. Con l'acutezza che gli è propria, Calvino individua il proprio della scrittura in un processo di oggettivazione, mentre la scrittura, di contro, è un processo di soggettivazione. Personalmente, credo che ciò che rende grande uno scrittore sia proprio la capacità di andare al di là di se stesso, di oggettivare. Anche quando scrive la propria autobiografia, il grande scrittore va al di là dell'io, tocca l'universale. Ecco come Calvino esprime questo concetto nel romanzo di cui stiamo parlando. A parlare è uno scrittore in crisi di ispirazione. Come scriverei bene se non ci fossi? Se tra il foglio bianco e il ribollire delle parole e delle storie che prendono forma e svaniscono senza che nessuno le scriva, non si mettesse di mezzo quello scomodo diaframma che è la mia persona. Lo stile, il gusto, la filosofia personale, la soggettività, la formazione culturale, l'esperienza vissuta, la psicologia, il talento, i trucchi del mestiere. Tutti gli elementi che fanno sì che ciò che scrivo sia riconoscibile come mio mi sembrano una gabbia che limita le mie possibilità. Se fossi solo una mano mozza che impugna la penna e scrive, chi muoverebbe questa mano? La folla anonima? Lo spirito dei tempi? L'inconscio collettivo? Non so. Non è per poter essere il portavoce di qualcosa di definibile che vorrei annullare me stesso, solo per trasmettere lo scrivibile che attende ad essere scritto, il narrabile che nessuno racconta. Non è bellissimo? Per scrivere bene bisogna fare il silenzio dentro se stessi, annullare se stessi, diventare una mano che scrive. Inverso è il processo della lettura. Ecco come lo descrive lo stesso personaggio poche pagine dopo. A pensarci bene, la lettura è un atto necessariamente individuale, molto più dello scrivere. Ammesso che la scrittura riesca a superare la limitatezza dell'autore, essa continuerà ad avere un senso solo quando verrà letta da una persona singola e attraverserà i suoi circuiti mentali. Solo il poter essere letto da un individuo determinato prova che ciò che è scritto partecipa del potere della scrittura, un potere fondato su qualcosa che va al di là dell'individuo. L'universo esprimerà se stesso fin tanto che qualcuno potrà dire «Io leggo, dunque esso scrive». Nel 24° canto del Purgatorio, Dante incontra Bonaggiunta da Lucca, un poeta della scuola toscana che aveva criticato Guinizelli, caposcuola dello Stil Novo. Ora però l'antico avversario è diventato sostenitore dello Stil Novo, tanto che chiede a Dante di spiegargli che cosa rende il suo stile così diverso da tutti i precedenti. Dante risponde con un'affermazione che ricorda quella che abbiamo letto poco fa in Calvino. Imi son un che, quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che ditta dentro vo significando. Non è Dante l'autore delle sue poesie, lui è solo colui che scrive la penna, che tiene la penna, che scrive sotto dettatura di amore. Gli scrittori sono spesso egocentrici, pieni di sé, vanesi. Tuttavia la scrittura, la grande scrittura, è un esercizio di umiltà, di annullamento di sé. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.